Dagli incontri nascono sempre nuovi stimoli, nuove idee. Ma quando ad incontrarsi sono dei musicisti, ecco che nasce qualcosa di profondamente diverso. Qualcosa che rimane e aggiunge una nuova nota sul pentagramma. L'esperienza dei magnifici e di destini incrociati in un nuovo programma, nel quale, attraverso i loro incontri, i grandi della musica danno vita a sorprendenti connessioni per creare nuovi mondi musicali. Radio 24 presenta I Magnifici Destini, un programma di Giacomo Zito. Nella storia del rock ci sono voci che vanno oltre i semplici concetti di bellezza, di bravura, di espressività. Le voci di alcuni personaggi del rock semplicemente contengono la vita. Nelle pieghe delle note cantate dagli interpreti più intensi e prolifici della musica contemporanea risuonano i sentimenti, le emozioni, le esperienze dolorose e felici dell'esistenza umana, come in un grande riassunto in cui ognuno di noi può riconoscere parte della propria storia. Una di queste voci è indubbiamente quella di Lou Reed. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Cantante, chitarrista, ma soprattutto poeta. 50 anni di carriera e un sound che si è trasformato album dopo album, decennio dopo decennio, riuscendo a rimanere fedele a se stesso e contemporaneamente a intercettare lo spirito dei tempi. Il brano che state sentendo, Perfect Day, è uno dei grandi capolavori di Reed. Una canzone che ti si infila sotto la pelle, con la sua melodia ipnotica e dolente, arricchita da un testo che si apre a decine di interazioni diverse, nessuna banale. Il sesso, l'amore, la droga, la redenzione, la perdizione. Qual è il tema? Forse tutti. Forse quindi, in un solo pezzo, la vita. Oh, it's such a perfect day. Just keep me hanging on. You just keep me hanging on. Raccontare un artista come Lou Reed attraverso gli incroci che lo hanno segnato presenta un problema di non semplice risoluzione. Chi scegliere fra le decine e decine di artisti, musicisti, pittori, poeti, guru e letterati che hanno intrecciato il proprio cammino con quello del rocker americano? Il percorso artistico di Lou è creato da diversi incontri suggestivi e da sodalizi che hanno segnato la storia della musica, ma anche lo spirito e il costume di mezzo secolo. Proviamo a raccontare i più importanti e profondi. Innanzitutto proviamo a dividere la vita di Reed in tre periodi, in maniera anche piuttosto banale. L'adolescenza, con gli esordi difficili, l'esplosione, con il successo e la fama, infine la maturità. Se prendiamo in considerazione la sua adolescenza, il primo incontro che lo segna è quello con la chiusura mentale dei suoi genitori. Lewis Allen Reed nasce il 2 marzo 1942 in una famiglia ebrea nel sobborgo di Freeport, a Long Island, praticamente a New York. Già dalla nascita Reed vuole essere un musicista. Non sappiamo se proprio sin dai primi vagiti, certamente però dalla prima infanzia canta e tenta di suonare. Adolescente impara a suonare la chitarra e incide un pezzo stile doo-wop, un approccio vocale in gran voga negli anni 50, quello dei Platters, per intenderci. La sua prima band si chiama The Shades e Lou, un mostro di precocità, ha solo 15 anni. Ho vissuto i primi anni della mia vita nella bambagia più nera. I miei genitori sono molto ricchi e perciò mi hanno tenuto il più possibile lontano dalla vita della strada e mi hanno accontentato in tutto. Sarà per questo, forse, che appena ho compiuto 20 anni li ho salutati, li ho ringraziati per tutto quello che avevano fatto per me e me ne sono andato a vivere con un negro alcolizzato, l'unico vero amico che avevo allora nel village. Tra tutto quello che avevano fatto i genitori di Lou Reed, però, c'è anche un episodio inquietante e tristemente passato alla storia. Dai 15 anni in avanti Reed mostra un atteggiamento sempre più ribelle, con pose effeminate sempre tese alla provocazione. Poi, a quanto dicono i biografi, si aggiungono anche il suo parlare apertamente di omosessualità e del suo ostentato interesse verso la musica del diavolo. Il perbenismo borghese non conosce mezze misure. Decidono di rivolgersi a un centro psichiatrico specialistico per farlo curare. Lou accetta la volontà dei genitori e si reca alla clinica anche di buon grado, con una certa strafottenza tra il divertito e il curioso. Quello che non sa Lou Reed è che quello che chiamano cura da queste parti è l'elettroshock. Per 2 settimane viene sottoposto a scariche elettriche intensive così violente che, come lui stesso ha più volte ricordato, gli provocavano la perdita completa per ore del senso dell'orientamento e della memoria. La terapia, se così si può chiamare, va avanti per parecchi mesi come un incubo. Trascinato a forza, Reed viene sottoposto alle scariche, urla, si oppone, si ribella, ma alla fine subisce. Non ero neanche più in grado di leggere perché, arrivato a pagina 17, non ricordavo più cosa avevo letto e dovevo ricominciare. Le scariche di certo non guariscono Lou Reed dai suoi eccessi. Al contrario, esasperano nettamente i suoi comportamenti e scaveranno un solco profondo tra lui e i suoi genitori, tra lui e il mondo borghese. And then sha-la-la-la-la, he made love to her gently, it was like she never ever come. And then sha-la-la-la-la, sha-la-la-la-la, when the sun rose and he made to leave. You know, sha-la-la-la-la, sha-la-la-la-la, neither one regretted a thing. Lasciatasi alle spalle quella pagina tragica di vita e anche il suo rapporto coi genitori, Lou Reed alla fine del 1960 si iscrive alla Syracuse University per studiare giornalismo, regia cinematografica e scrittura creativa. Sono gli anni della formazione artistica e degli incontri decisivi. Gli anni 60 nelle università americane sono un ricettacolo di opportunità, di suggestioni creative e di sperimentazioni. Così Lou prima inizia a condurre un programma radiofonico notturno alla stazione radio WAER, chiamato Excursions on a Wobbly Rail, titolo omaggio a un brano musicale del pianista jazz Cecil Taylor. Nel programma Lou Reed può mostrare tutta la sua passione per il jazz, che inciderà moltissimo sul suo stile chitarristico. Sono questi gli anni in cui Lou Reed scopre la vita, quella vera, quella fuori dalla campana di vetro sotto cui è vissuto con i suoi genitori. In 12 mesi ho scoperto una realtà allucinante. Malata, forse marcia. Però era realtà, non favolette per bambini idioti. Ho dovuto lottare per poter vivere, per imparare in fretta le regole del gioco. Per evitare il servizio militare, si andava dritti in Vietnam a quei tempi, mi sono preso volutamente una sana epatite virale. E così li ho fregati tutti quanti, quelli dell'ufficio reclutamento. Nel giugno 1964, Reed si laurea alla Syracuse University College of Arts and Sciences. Il periodo trascorso alla Syracuse gli ha permesso di entrare in contatto con artisti e con nuove tendenze musicali. È al college che conosce alcune delle persone che avranno un'influenza enorme su di lui: il suo professore, nonché poeta alcolizzato, Delmor Schwartz. Delmor Schwartz è un intellettuale che ha influenzato gli scrittori newyorkesi degli anni 30 e 40, insegnando in qualche corso di scrittura creativa alla Syracuse University, ma anche a Princeton, al Kenyon College e ad Harvard, senza però mai godere in vita di un adeguato riconoscimento. Il suo maledettissimo Ante Litteram sarà un punto di riferimento per la Beat Generation, ma lo spinge spesso a isolarsi, a rinchiudersi in una stanza, solo, con i suoi problemi di depressione e alcolismo, a sparire per settimane. Lou Reed diventa uno dei suoi amici più cari. Provate a immaginarli, in uno dei tanti locali underground della Grande Mela, avvolti dal fumo impenetrabile di troppe sigarette, mentre recitano poesie e discutono di letteratura. Da Schwartz, Reed impara a guardarsi dentro, a raccontare le proprie emozioni attraverso veri e propri flussi di coscienza. Schwartz si spegne presto, a soli 53 anni, nell'hotel Marlon dove abita negli ultimi anni. Ci vogliono 2 giorni prima che la direzione dell'albergo se ne accorga. Delmore Schwartz è stato un mio insegnante, ma soprattutto un amico. Aveva una cicatrice evidente sulla fronte e diceva di essersela procurata duellando con Nietzsche. È stato sepolto accanto a sua madre, una cosa che egli avrebbe odiato profondamente. Schwartz ha un grandissimo impatto sulla vita e sulla carriera di Lewis Reed, che inizia ad essere visto dagli ambienti letterari newyorkesi come un essere strano e misterioso. I suoi atteggiamenti bizzarri e scostanti, la sua passione per i poeti maledetti, i suoi dialoghi cinici e corrosivi contribuiscono a formare un'immagine che molte persone detestano e altre trovano irresistibile. Tra queste ultime ce ne sono 2 che danno un ulteriore contributo, questa volta decisivo, alla svolta nella carriera di Lou Reed. La prima è Shelley, una delle ragazze più belle del college. La storia con lei durerà quasi 4 anni, tra alti e bassi, fino alla divisione a causa degli esasperanti giochi psicologici ai quali Reed già allora sottoponeva lei e tutte le persone che incontrava. È a lei che dedica i primi brani che scrive, tra cui I'll Be Your Mirror. I'll be the wind, the rain and the sunset, the light on your door to show that you're home. When you think the night has in your mind that inside you're twisted and unkind, let me stand to show that you are blind. Please put down your hands, 'cause I see you. La seconda persona è il suo braccio destro a livello musicale. Reed lo conosce dopo essere diventato un compositore pop professionale per la Pickwick Records, per la quale doveva scrivere un numero di pezzi al giorno che la casa discografica poi avrebbe fatto incidere e pubblicare sotto falsi nomi. Qui conosce un musicista pagato dalla Pickwick per una session. Si chiama John Cale. Cale, a metà degli anni 60, è un talentuosissimo musicista che arrangia brani pop per sbarcare il lunario, ma che collabora assiduamente con le neo-avanguardie newyorkesi. I due si intendono subito a meraviglia, sia sul piano intellettuale sia su quello musicale. Decidono così di provare a dare vita a un loro progetto. Una rock band d'avanguardia, questa è l'idea. Vengono reclutati altri due componenti, Sterling Morrison e Maureen Tucker. Quando si tratta di trovare un nome alla band, viene in soccorso un libro giallo trovato nella spazzatura. Nascono così i Velvet Underground. Visto che anche al di fuori del nostro lavoro diurno comunque suonavamo tutto il tempo, pensammo che sarebbe stato forse il caso di cercare di farsi pagare. Così andammo a finire in un tremendo caffè dove lavoravamo facendo 6 esibizioni per serata, 7 sere la settimana, $5 a testa per serata. La cosa durò 1 settimana e mezza. Fummo licenziati perché odiavano totalmente la nostra musica. I primi mesi di attività, quindi, non sono particolarmente produttivi e remunerativi per la band, che stenta a decollare, si arrangia a sbarcare il lunario nei modi più improbabili, fino ad un incontro particolarmente importante. Suonavamo insieme già da molto tempo e vivevamo in un appartamento da $30 al mese. Non avevamo assolutamente soldi e ci accontentavamo di mangiare farina d'avena giorno e notte. Ogni tanto donavamo il sangue o posavamo per quei giornali scandalistici per rimediare qualche dollaro. Una volta venne fuori la mia foto e c'era scritto che ero un omicida maniaco sessuale che aveva ucciso 14 bambini e aveva registrato tutto sul nastro e poi l'aveva fatto sentire a mezzanotte in un teatro all'aperto nel Kansas. Quando nel giornale uscì la foto di John, si diceva che aveva ucciso il suo amante perché il suo amante stava per sposare sua sorella e lui non voleva che sua sorella sposasse un omosessuale. E poi incontrammo Andy. Andy è ovviamente Andy Warhol. Le cose vanno così. I Velvet Underground, dopo i primi fiaschi in alcuni locali dovuti più che altro a intemperanze comportamentali, diventano un gruppo cult nel panorama artistico musicale alternativo del Greenwich Village. Il sodalizio tra Reed e Cale è irresistibilmente creativo. I due sembrano perfettamente complementari. Alla loro vicenda artistica si appassiona anche il grande Andy Warhol, che chiede loro il permesso di fare da manager, promotore, finanziatore del primo album, The Velvet Underground and Nico. Il famoso album con la banana in copertina uscito nel 1967. Andy fece la foto di una banana per la copertina dell'album e ora ho visto un ingrandimento della banana che è diventata davvero enorme e avvolta di ogni altro genere di significato. È una banana sexy, estremamente carina e la copertina dell'album si sbuccia, gran cose, per rivelare l'interno di una banana molto sexy e attraente. La partecipazione della cantante tedesca Nico all'album, che canterà in alcuni brani del primo LP, è una mossa studiata e voluta da Warhol, che alla ricercata crudezza della musica del gruppo voleva anteporre un'immagine limpida, bella, statuaria, come punto stridente. La nostra citazione preferita era: i fiori del male stanno sbocciando, qualcuno deve schiacciarli prima che si spargano. Dicono che uno dei punti di forza di quell'album e dei Velvet Underground siano i miei testi. Può darsi. Perché non ho fatto lo scrittore? Semplice. Perché ho sempre avuto una cattiva memoria e non pensavo di essere bravo abbastanza. Così ho cominciato a scrivermi i miei monologhi in musica. Piccole commedie come protagonista. It's just a restless feeling by my side. The Velvet Underground e Nico è un album fondamentale nella storia della musica. Il sound è originalissimo e innovativo, diverso da tutto ciò che si era sentito prima e destinato a segnare profondamente tutto ciò che si sentirà dopo. Il glam, il punk, la new wave, tutto passa da qui, dall'incrocio di geni assoluti come Lou Reed, Andy Warhol, John Cale. Per Lou Reed, il ricordo di Warhol è ancora oggi fondamentale e decisivo. Oh, io non ho eroi. Detto questo, è stato un uomo incredibilmente grande. Che fortuna averlo incontrato. È terribile non avere intorno oggi uno del suo genio. Nel 1968 comunque Lou licenzierà Warhol per sostituirlo con un manager più esperto del settore musicale e nello stesso anno esce il secondo album, White Light, White Heat, più sporco, più distorto del precedente. Alla fine dell'anno Reed esclude dal gruppo anche l'altra colonna portante musicale, John Cale. La decisione è sofferta e deriva da forti tensioni interne derivanti dallo stress dei tour e dalla fortissima insoddisfazione commerciale e frustrazione di entrambi. Per Lou Reed si apriranno nuove pagine artistiche importanti, legate a nuovi, magnifici destini. I magnifici destini. Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Oggi, ai Magnifici Destini, vi stiamo raccontando la storia di una leggenda della musica, Lou Reed. Vi abbiamo raccontato la sua adolescenza, il rapporto problematico con i genitori, la sua crescita letteraria sotto l'ala del maledetto Delmer Schwartz. E poi gli incontri decisivi con Andy Warhol, con il chitarrista John Cale. Nel 1970 le strade di Lou Reed e di Cale si dividono in modo traumatico. Per i primi due album, i Velvet Underground erano stati una band commercialmente a dir poco disastrosa, ma fra le più innovative della musica rock. Tanto che già negli anni successivi non si contano gli artisti e i gruppi che a loro si ispirano. Le poesie in musica di Lou, che sembrano uscite dalla penna di un Rimbaud postmoderno, lasciano il segno e scardinano tabù e convenzioni. Si sa però che una band è anche un progetto commerciale. I soldi non arrivano. Così i rapporti tra Reed e Cale si incrinano e Lou si ritrova senza il suo fidato alfiere. Il primo album senza Cale si intitola con poca fantasia Velvet Underground. Al posto dell'ex amico c'è ora Doug Yule. Nel 1970, tra crescenti problemi manageriali, continui fiaschi commerciali e conseguenti forti tensioni tra i membri del gruppo, esce Loaded, album anomalo perché la maggior parte dei brani viene cantata da Yule. Reed rimedia una forte epatite e perde la voce poco prima delle registrazioni. Questo evento causa in Lou Reed una fortissima depressione. Ironia della sorte, la vena depressiva lo coglie proprio mentre il singolo Sweet Jane inizia a spopolare e porta al gruppo finalmente la notorietà presso il grande pubblico. Cupo e smarrito, Lou Reed abbandona i Velvet Underground e torna dai suoi genitori. Nel clima crepuscolare di Long Island, Lou Reed vive un periodo triste e difficile. Pare trascorresse gran parte del suo tempo facendo lunghe passeggiate, solo, in riva al mare. Per qualche mese lavora come dattilografo nella società del padre e sfoga la sua malinconia, continuando a comporre canzoni che vengono messe da parte per eventuali lavori futuri. Capita così un giorno che qualcuno si ricordi di lui. Si tratta di un dirigente della casa discografica dei Velvet, che lo convoca a Londra. Vorrebbe farlo riprovare con la musica. Reed accetta e parte per la capitale inglese. Inizia così il secondo atto della sua carriera. Qui a Londra, all'inizio dei 70, Reed si immerge in un ambiente vitale e in fermento. girando per la City, trova l'ispirazione per il suo omonimo album di debutto solista, che include sia i nuovi pezzi sia alcuni brani che non erano stati inclusi negli album dei Velvet Underground. L'album Lou Reed non avrà nemmeno questa volta molto riscontro, ma gli permetterà comunque di tornare nella mischia e di conoscere altri grandi artisti. Soprattutto, lo conduce all'incontro fondamentale per il rilancio della sua carriera: David Bowie. In quegli anni Londra è la capitale del glam rock. Ambiguità sessuale, look kitsch, approccio trasgressivo ma volutamente e provocatoriamente lontano dagli alti ideali del 68, dagli hippie. Gli alfieri del glam rock testimoniano la perdita di innocenza di una generazione che ha lottato, forse ha vinto, ma si è ritrovata nelle mani un pugno di mosche. Per loro il glam è una nuova sfida alle convenzioni borghesi, il rifiuto dei modelli culturali di riferimento attraverso la teatralità esibita e ostentata, il travestitismo, la bisessualità. Il re indiscusso di questo genere è proprio David Bowie, nei panni di Ziggy Stardust. Con questo brano, Queen Beach, Bowie aveva reso omaggio a Lou Reed, imitando volutamente la sua voce. Nei suoi concerti spesso esegue brani dei Velvet Underground. Bowie, da grande artista in anticipo sui tempi, ha sempre dichiarato di avere assorbito spunti musicali dai più disparati modelli. Uno dei modelli di riferimento è la band di Lou Reed. Forse per la mia passione per Andy Warhol, ma ho ammirato profondamente il primo album dei Velvet Underground. L'espressività dei testi di Lou Reed, la loro tensione teatrale, mi hanno aperto un mondo. Io sento di dovergli molto. Non può accettare che un talento così grande vada sprecato, che proprio colui che ritiene uno dei suoi maestri finisca nell'oblio. Per queste ragioni, Bowie, molto generosamente, come raramente avviene fra artisti, si propone di collaborare alla produzione del prossimo album, ulteriore possibilità che la RCA offre a Lou Reed per riscattarsi dall'insuccesso del lavoro precedente. Lou accettò la mia collaborazione come produttore. Era così generoso, ne ero sconvolto. Avevo tante idee, ma ero intimidito dal lavoro che aveva fatto. Anche se fra noi c'erano pochi anni di differenza, Lou aveva un tale bagaglio di esperienza. 8 luglio 1972. David Bowie in concerto presso la Royal Festival Hall. Il Duca Bianco a un certo punto introduce il suo ospite d'onore, Lou Reed. Dopo il concerto, Bowie indice una conferenza stampa per pubblicizzare la loro musica e la loro immagine. Vuole che il suo pubblico si avvicini a Lou Reed e riconosca pubblicamente in lui la sua maggiore fonte di ispirazione. Lou ha portato il rock nell'avanguardia. Ha creato l'ambiente nel quale inserire la nostra visione più teatrale. Ci ha dato la strada e i paesaggi, e noi li abbiamo popolati. Lou Reed ha creato lo zeitgeist verbale e musicale. La RCA riprogetta l'immagine di Lou Reed a tavolino, proiettandolo nel glam rock decadente e maledetto. Nasce il fantasma del rock, come verrà chiamato in seguito. Tuta nera, trucco giapponese, occhi bistrati, unghie laccate di nero. Nasce l'album del rilancio di Lou Reed. Si intitola Transformer. Scrivere canzoni è come recitare e riservarsi la parte del protagonista. Così cerchi di scrivere i versi migliori che puoi. Sono parti brevi e devi adattarti a interpretare tutti i personaggi. Scrivo attraverso gli occhi di qualcun altro. Osservo sempre con attenzione le persone su cui sto per scrivere una canzone. Poi mi trasformo in loro. Ho sempre pensato che sarebbe stato divertente presentare alla gente personaggi che forse non avevano mai incontrato prima o che non avevano mai voluto incontrare. Quel genere di persone che a volte vedi alle feste ma che non osi avvicinare. Questo è uno dei motivi principali per cui ho scritto quelle canzoni. Questo è il nucleo dell'ispirazione di questo album straordinario e di pezzi eccezionali come Vicious. Vicious. All'uscita dell'album segue uno straordinario tour. Il disco, per la prima volta nella carriera di Lou Reed, è un successo clamoroso che lo porta in vetta a tutte le classifiche, trasformandolo in una vera rock star. Viene considerato un album scandaloso, dalla copertina ai testi, un disco scioccante ed epico, la cui importanza va oltre il suo valore musicale. Transformer afferra come pochi altri lo spirito del tempo, il cuore di un decennio di trasformazioni, di contraddizioni, di rivolgimenti, come gli anni 70. Da questo momento in avanti, Lou Reed sarà definitivamente considerato un totem del rock, una sorta di divinità, amato, riverito. Transformer e l'incontro con Bowie sono stati quindi la svolta, nonostante Lou cerchi spesso di ridimensionarne la portata. Transformer? Ma mi è completamente indifferente. Non lo ascolto quasi mai. I magnifici destini. Oggi ai Magnifici Destini, la storia musicale e personale di Lou Reed, dagli inizi fino alla consacrazione di Transformer nel 1972, con l'aiuto decisivo di David Bowie. Da quel momento in avanti, per Lou Reed, arrivano grandissimi successi uno dopo l'altro, come la straordinaria rock opera Berlin del 1973. Feci quello che la gente si aspettava da me. Come ho già detto, volevo diventare celebre per poter essere il più grande stronzo in circolazione. E sono riuscito anche a ispirare dei grossissimi stronzi, perché la mia merda è molto meglio dei diamanti degli altri. Tra i personaggi che Lou cita con un amichevole ma poco lusinghiero epiteto che si ispireranno a lui, c'è anche uno dei più grandi chitarristi della storia del punk, Robert Quine. Quine è un musicista che negli anni 70 cresce, musicalmente parlando, a Pane e Lou Reed. Il suo stile viene modellato su quello delle chitarre dei Velvet Underground. Infatti, da grande fan dei Velvet, aveva registrato una serie di nastri da alcuni concerti che la band aveva tenuto a San Francisco nel 1969, custodendo in questo modo una testimonianza fondamentale per capire i Velvet Underground. Capita così, per caso, che all'inizio del decennio successivo, gli anni 80, Quine riceva un invito da parte di Reed a casa sua, nella sua nuova villa in campagna, dove vive con la moglie, anche lei nuova, Silvia Morales. Lou vuole conoscerlo e capire meglio se ci possono essere possibilità di collaborazione. Quine proviene dall'esperienza newyorkese dei Voidoids, la band di Richard Hell che insieme ai Ramones aveva segnato l'inizio di un nuovo genere. Quello con Quine è un idillio artistico straordinario, che esattamente come era accaduto con Bowie e con Cale anni prima, rinvigorisce l'ispirazione di Lou Reed. Il mio incontro con Lou Reed ha portato poi a qualche anno di piena sintonia artistica, anni durante i quali pensavamo musica allo stesso modo. Per me rimane un'esperienza fondamentale della mia carriera, da cui ho imparato tutto, per di più suonando accanto a uno dei miei idoli di sempre. Dalla collaborazione dei due nasce The Blue Mask, pubblicato nel febbraio 1982 e dedicato a Delmore Schwartz. Si tratta, a giudizio dei critici, di un piccolo capolavoro, raffinato, con testi profondi, ispirati e un livello musicale che in seguito Lou Reed non riuscirà più a toccare. The image of the poets in the breeze. Canadian geese are flying above the trees. Quine dà un apporto fondamentale, suggerisce un arrangiamento minimal, senza tastiere e sintetizzatori. Le chitarre di Reed e di Robert Quine sono mixate separatamente, rispettivamente nei canali stereo destro e sinistro. Il risultato è una vera gemma. My friend and teacher occupies a spare room. He's dead at peace at last, the wandering Jew. Other friends had put stones on his grave. He was the first great man that I had ever met. Anche il rapporto con Quine si romperà per il difficile carattere di Reed e per le conseguenti divergenze artistiche. Quine farà tesoro dell'esperienza con Reed, diventando un uomo di fiducia della line-up di Tom Waits e collaborando con altri grandi artisti come Brian Eno. They tied his arms behind his back to teach him how to swim. They put blood in his coffee and milk in his juice. Nel giugno 2004, Robert Quine si spegne all'età di 61 anni, schiacciato, si dice, dal peso degli eccessi della sua vita. Lou Reed gli rende pubblicamente omaggio. La sua carriera è andata avanti e va avanti tuttora, senza però riuscire a raggiungere le vette del passato. Tra acuti più letterari che musicali, come l'ultimo album The Raven, omaggio a Edgar Allan Poe, e discutibili operazioni, vedi la stentata collaborazione con i Metallica, Lou Reed rimane una leggenda del rock, uno degli uomini che più di ogni altro ha saputo cambiarlo e trasformarlo. Sentiamo Fernanda Pivano, una che di cultura americana se ne intendeva. Lou Reed merita tutti questi successi e molti altri, perché rappresenta un'era del rock. È stato ed è uno scrittore, un poeta, un inventore di suoni, un musicista e uno sperimentatore. Un vero eroe musicale di tutti i tempi e paesi.